E allora buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti così, così numerosi. Capisco che l'autorevolezza dei nostri relatori abbia attirato questo folto pubblico, ma credo che non solo dipenda dal fatto di avere così autorevoli costituzionalisti, presidenti emeriti della Corte Costituzionale, ma anche la rilevanza del tema. E perché certo, tra l'altro, alla Fondazione Basso fa molto piacere ospitare questo dibattito, perché proprio il nostro fondatore è stato autore, oltre che autore, di battaglie più volte nel corso della sua vita parlamentare e poi già all'Assemblea Costituente. Chiedo scusa, abbiamo cominciato forse con troppo anticipo, abbiamo l'onore di avere con noi il professor Flick, abbiamo cominciato forse con un poco di anticipo perché c'era già molta gente, come vede. Abbiamo l'onore di ospitare il professor Flick come autorevole ascoltatore di questa relazione. E vi dicevo, questo volume complesso e interessante, in cui si discute la possibilità di una legge generale sulle libertà religiose, è un tema questo molto caro alla Fondazione Basso, perché proprio Lelio Basso, fin dall'Assemblea Costituente, poi durante tutta la sua vita parlamentare, si batté contro i privilegi concordatari e spesso in totale solitudine, e presentò anche personalmente una proposta di legge sulla libertà religiosa, che era peraltro destinata a un sicuro insuccesso, perché mirava a modificare l'articolo 7 e anche l'articolo 8 e 19 della Carta Costituzionale. Questo volume pubblica gli atti di un importante seminario di studio promosso dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Salerno, al quale seminario e quindi alla redazione delle relazioni nel volume hanno partecipato molti giovani studiosi, e con l'intento di riconsiderare il tema di una normativa generale sulla libertà religiosa, anzi sulle libertà religiose, come indica il titolo, alla luce dei cambiamenti intervenuti sia nella realtà sociale, dei movimenti migratori all'interno e all'esterno del continente europeo, sia anche nel panorama giuridico, per effetto del consolidarsi di un diritto europeo sempre più vincolante. Nelle autorevoli relazioni introduttive, con molto realismo si fa attenzione però anche al contesto politico. Il professor Tozzi, che è il promotore anche di questa iniziativa, osserva che la mancata emanazione di una legge generale sulle libertà religiose ha sì perpetuato discriminazioni e ingiustizie, ma ne ha forse evitate di nuove, perché purtroppo la nostra attuale politica ecclesiastica, tradizionale peraltro, pone attenzione solo ad alcune religioni più importanti e non alle esigenze religiose delle persone. Per loro invece, proprio per le persone, è dettato l'articolo 19 della nostra Costituzione e, aggiungo io, l'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Anche il professor Varnier, nella sua introduzione, pur riconoscendo che in Italia abbiamo delle confessioni garantite, cioè quelle capaci di fare lobby sostanzialmente, che lasciano inattuati i diritti fondamentali dei singoli, anch'egli ritiene tuttavia impraticabile oggi una legge quadro che dia corretta attuazione al disegno costituzionale in materia religiosa. Analoghe posizioni scettiche sono espresse da altre relazioni di carattere generale. Ma di grande interesse sono gli studi sui diversi aspetti di contenuto che riguardano le garanzie per la persona, come quella del professor Macri, che è qui presente, sulla libertà di coscienza, religiosa e di culto nello spazio europeo. Riguardano le garanzie per i soggetti collettivi, i luoghi di culto, il personale religioso, la questione dell'insegnamento, cui è dedicata la relazione del professor Parisi, che pure è presente, e ancora le questioni bioetiche, il matrimonio, il registro delle confessioni religiose. Dunque un volume molto ricco, importante, che si conclude poi con alcuni interventi tratti dalla discussione finale degli onorevoli Bocchino, Ranieri, del giornalista politico e del professor Pasquale Giustiniani, che anche egli ci onora oggi della sua presenza. Bene, non spetta a me entrare nel contenuto e quindi do subito la parola al primo dei nostri illustri relatori, il professor Casavola. Prego, professore. Allora, il primo, secondo l'ordine alfabetico, che è un ordine naturale. Io non entro nei contenuti così preannunciati nella presentazione di Elena Paciotti, perché non mi sento competente a valutarli nel merito, uno ad uno. E il mio non è il mestiere del professore di diritto ecclesiastico, non è neanche quello del professore di diritto costituzionale, che ne scrivano quelli che annotano i curricula. Una volta ho dovuto fare addirittura alla radio una precisazione: io sono un professore di storia del diritto romano. Però la storia del diritto romano, così come io l'ho professata e in qualche modo anche tramandata ai miei allievi, non è soltanto il diritto storico di una società, di uno Stato, ma è l'asse della civilizzazione occidentale, l'asse più continua e più lunga anche rispetto al cristianesimo, che viene citato in parallelo al diritto romano. E allora cerco di trarre alcuni concetti che possono anche rappresentare un punto di riferimento critico rispetto alla ricchezza straordinaria di questo volume. Primo punto: noi siamo abituati a considerare la libertà religiosa nella sequenza che ci viene dal mondo angloamericano, libertà di pensiero, libertà di coscienza, libertà di religione, no? E quale cultura si cela dietro questo trinomio? Una cultura fortemente centrata sulla evoluzione intellettuale e morale dell'individuo, libertà di pensiero, di coscienza, di religione. Bene, la mia esperienza di storico mi dice che la religione è prima di tutto un grande fatto collettivo, un grande fatto sociale. Si ha una rivelazione immediata alle moltitudini e nella scansione dei tempi si investono delle élite che propagano questo messaggio è prima fatto di narrazioni e dopo invece di concettualizzazioni, di teologizzazioni. Le religioni mirano a modificare l'uomo attraverso un modello di relazioni sociali che in qualche modo contrapposto ai modelli preesistenti e dominanti, conducendo un conflitto permanente con quelli per sostituirli. Allora, di fronte a questo fatto, che cosa fa lo Stato? Perché lo Stato, certo, in qualche modo, non fosse altro che, direi, per una sua collocazione logica nel mondo non solo più dell'immaginario, ma del riflesso, della cultura di riflessione, in qualche modo preesiste alla religione, perché deve controllarla, deve dominarla. L'esperienza romana ci dice che il sacro è il frutto di una libertà creativa che investe comunità inferiori a quelle dello Stato, a cominciare dalla famiglia, i sacra familiaria. Poi è quella degli individui che però hanno uno spazio di convivenza collettiva, i sacra popularia, per arrivare ai sacra pubblica, che entrano dentro la strutturazione politica dello Stato, politico-costituzionale dello Stato. Il sacerdozio pubblico è parificato alla magistratura dello Stato. Dunque lo Stato, in questa fase, controlla una religione che serve ai suoi fini, che sono i fini della forte coesione sociale all'interno, di fedeltà alle istituzioni e dunque della buona sorte complessiva dello Stato. La cura della religione pubblica è la cura del futuro dello Stato. Questo può essere considerato una sorta di imprinting costituzionale dello Stato antico, sicché quando interviene una religione che vuole superare ogni struttura particolare delle comunità familiari, della comunità cittadina, della comunità politica, lo Stato si trova di fronte ad un antagonista, ad una forza antagonista, che non rientra in nessuno di questi schemi, pure onnicomprensivi nella loro virtualità, nei sacri privata o familiare, popolare, pubblica. Allora ecco che si intesse il primo punto di conflitto nel fatto che questa religione pensa alla umanità, non pensa ad un popolo e meno che mai quindi ad uno Stato di cui impadronirsi e di cui servirsi come un ulteriore strumento di evangelizzazione nel caso del cristianesimo, ma esemplifichiamo anche per facilità di comprensione con il cristianesimo. E di qui una conquista non più dello Stato, ma delle comunità sociali, le chiese sono il documento principe dato dall'Epistola di San Paolo. Le chiese sono delle comunità sociali, delle società che vanno conquistate, possibilmente senza entrare nello scontro diretto con l'organizzazione politica di queste società, fino al punto però in cui questo scontro diventa inevitabile, perché si richiede allo Stato romano l'uscita da una, oggi potremmo chiamarla con un termine molto moderno, anche se molto improprio, politica ecclesiastica, se vogliamo, politica religiosa dello Stato romano. Era ispirato alla tolleranza verso tutte le religioni, verso tutti i culti. Il Pantheon, che abbiamo qui a poca distanza, addirittura avrebbe dovuto ricevere la statua di Cristo, perché Cristo era una delle nuove sopravvenute divinità. E la politica dello Stato romano è la politica dell'apertura, se vogliamo dire, e avant la lettre, una sorta di politica di libertà religiosa, no? Di libertà religiosa. Nessuno di questi dei era preferito ad altri, anche se da un punto di vista empirico i grandi leader dello Stato valutavano il favore che nelle sorti delle collettive generali veniva da quella particolare divinità venerata rispetto. E a quel punto si cominciò a chiedere un atto di subordinazione e di lealtà a questa nuova religione verso lo Stato romano. E cominciano i processi, da principio soltanto verso decine o centinaia di persone, non più, che si chiamano poi, dal loro punto di vista dei documenti che ne sono rimasti, gli acta martyrum, cioè questi processi in cui i nuovi credenti testimoniavano la inconciliabilità della fede nel loro Dio rispetto alla fede nello Stato e alla subordinazione a chi lo impersonava, cioè all'imperatore. Dopo di questa fase si arriverà poi al vero e proprio scontro. Badate bene gli scontri che poi danno luogo alle persecuzioni. sono meno motivate sul piano politico rispetto invece al conflitto culturale all'interno delle società. I residui delle società precedenti non volevano accettare questa universalizzazione da parte dei cristiani, e dallo scontro all'interno proprio endogeno delle società che erano, subivano questa pervasività del cristianesimo, che per ragioni di ordine pubblico interviene lo Stato e si hanno le grandi persecuzioni. Che cosa accade a conclusione di questa fase? Accade che la diversità di fede religiosa si ribalta sul piano politico nel conflitto tra più pretendenti alla successione al trono imperiale. Sicché, per esempio, tra Costantino e Massenzio nasce il punto di divisione, in cui la religione è soltanto strumentale, perché non c'erano i cristiani che dicevano: ah, noi siamo per Massenzio, noi siamo per... No, ma sono gli apici di queste due forze in conflitto che devono fare una scelta per avere il consenso. Ancora una volta cominciamo col scoprire le origini di questa contesa intorno al consenso. Guardate, il consenso doveva attraversare in questa circostanza le forze militari, e secondo una settorializzazione crescente nella tarda antichità nelle varie forze sociali oppure variamente legate all'apparato dello Stato, i militari avevano una loro religione, avevano un loro culto. Il culto nel sole è un tipico culto militare, però era quel culto che poteva in qualche modo entrare dentro modelli, calchi che appartenevano al cristianesimo. Quella sorta di mescolanza tra mitologia e storia ricorda il sogno di Costantino, che vede un labaro vittorioso con la scritta "In hoc signo vinces", capisce che deve fare la scelta tra queste diversità culturali e religiose, fa la scelta per il cristianesimo proprio per la conciliabilità con il culto solare, vince la prova contro Massenzio, prima emana la tolleranza in modo da, come dire, perlomeno lenire lo scontro religioso, e poi invece fa la scelta per la religione. Guardate, la scelta costantiniana non va banalizzata come d'uso nella tradizione scolastica, della storiografia accademica, perché Costantino non è che si converta tutto ad un tratto al cristianesimo. Costantino fa un calcolo politico, strumentale. Adotta il cristianesimo perché ne fa, d'altra parte su questo abbiamo documenti inoppugnabili, perché abbiamo una lettera della sua cancelleria, probabilmente da lui dettata, e su cui ormai filologicamente non c'è alcun dubbio, in cui lui dice: al di sopra delle forze dei miei eserciti c'è la forza dell'unità nella fede dei miei cittadini. Allora, ecco la prima pietra, no, di questa costruzione che affronterà i secoli dell'Occidente europeo. Costantino si proclama se stesso episcopos ton ectos, che vuol dire il vescovo di quelli che stanno fuori, cioè di quelli che non è che siano già credenti, che sono in qualche modo nella corona circolare attorno alla Chiesa. Allora, nella Chiesa ci sono, guardate bene la finezza di questa costruzione, nella Chiesa ci sono gli episcopoi, c'è il sacerdozium, lo Stato non può entrare nel sacerdozium, la sua missione è di starne al di fuori. tutti voi che siete espertissimi di questi problemi della laicità moderna si rendono conto di dove vanno a finire questi tasselli originari. Questa prima forma di laicità, lo Stato non entra nei fatti della religione, ma sta fuori a proteggerla. La posizione di questo imperatore, primo imperatore cattolico, il termine cattolico è da lui coniato, pare, ma certamente propagandato, che vuol dire universale, perché gli stava a cuore questa universalità del nuovo credo, della nuova religione, per ragioni di conservazione di un potere in qualche modo non contestato. E badate che nella politica di Costantino non c'è soltanto questo quadro interno ai confini del suo potere imperiale, ma c'è un quadro anche all'esterno. C'è una lettera all'imperatore di Persia in cui lui si fa garante della diciamo condizione protetta e pacifica dei cristiani esistenti in Persia, in qualche modo, ancora una volta utilizzando la formula "io sono il vescovo di quelli che stanno fuori", un vescovo laico, a me sta a cuore la pace sociale, il buon ordine anche di queste comunità che sono estranee all'estero, ma attraverso questo filo si presenta come un imperatore anch'egli universale, che mantiene un ordine universale, come se oggi una megapotenza, no, si preoccupa dell'ordine anche all'estero. Si inaugura una fase totalmente nuova rispetto alle tradizioni romane e alle tradizioni più antiche, quelle non solo greco-ellenistiche, ma quelle semitiche, in cui la religione non deve essere, come dire, assoggettata ad intromissioni del potere civile, ma contemporaneamente si dà al potere civile una funzione doverosa di conservazione della pace sociale. La religione deve dare la pace sociale? Quando non riuscisse a darla, allora interviene questo potere esterno che esce dalla sua neutralità, ecco, e interviene. Quando interviene? Purtroppo interviene dentro il cuore dei problemi della nuova religione, cioè il simbolo della fede, quello che noi diciamo il credo, no? Allora, la controversia fondamentale di questa nuova religione, che tutte le vecchie religioni non politeiste non avevano, qual è? Che non è il cristianesimo, non è una religione monoteista. Noi diciamo le tre religioni di Abramo sono monoteiste. È una religione trinitaria, che è cosa totalmente diversa da una religione monoteista. Cioè bisogna fare una analisi che in qualche modo distingua nella unica divinità tre figure. Nasce l'evoluzione anche del concetto di persone, che i giuristi già per loro conto, per i loro scopi, avevano portato avanti. Rinasce in questa teologia trinitaria il tema appunto delle persone distinte dentro un'essenza unica. A noi adesso sembra che insomma andassero cercando proprio il pelo nell'uovo, ma c'è tutta una serie di concili turbolenti che spesso finivano in scontri cruenti intorno alla costruzione del simbolo. Tanto per fare una semplificazione di maggiore evidenza, lo scontro tra il simbolo di Calcedonia, 451, padre Pasquale mi corregga, e il monofisismo, questa che passa per essere un'eresia. Volete che gli imperatori si occupassero di queste cose? Loro, anzi, hanno sempre ribadito che non si entra all'interno, però ecco ancora una volta che cos'è la religione di allora rispetto a quello che oggi è la nostra idea più diffusa intorno alla religione. La religione significa società, significa popolo. Dietro un patriarca monofisita c'è un popolo, dietro un patriarca invece ortodosso c'è un popolo, e quando ci si divide, le chiese non erano soprattutto nella parte orientale dell'impero, che è la parte che sopravvive anche politicamente dopo il 478, in cui a Castel dell'Ovo finisce, a Napoli finisce l'impero d'Occidente, queste chiese diventano come dei piccoli stati in guerra, e allora l'impero si deve garantire, no? Di nuovo la pace sociale, e deve fare da mediatore, da arbitro, oppure imporre. Abbiamo tutta una serie di interventi dell'imperatore che impongono o il simbolo di Calcedonia, o impongono un simbolo modulato in modo da non offendere troppo i monofisiti, oppure si schierano con i vescovi e i patriarchi monofisiti. A questo punto, dove c'è più la neutralità dello Stato? Come si fa a dire, un conto è l'imperium e un conto è il sacerdozium, se addirittura i simboli della fede devono soggiacere ad una ragion di Stato? E quando si arriverà a una sorta di pacificazione, per l'Oriente si ha un cristianesimo che non avrà più la stessa storia comune con l'Occidente. Per l'Oriente si dice cesaropapismo, sono tutte formule tra storico e sociologico, perché cesaropapismo non significa che tutta la struttura ecclesiologica sia iscrivibile dentro la notizia dignitatum dei grandi funzionari dell'apparato. No. Però intanto quella struttura ecclesiologica sopravvive in quanto lo Stato la protegga e faccia il suo dovere. Le costituzioni giustinianee stabiliscono addirittura i regimi dei monasteri. E dove, quale intrusione maggiore potete immaginare, in cui sono obbligati i monaci a vegliare anche di notte con opportuni turni, perché continuano a pregare per le buone sorti dello Stato. Più funzionariali di così, non lo so. La storia dell'Occidente invece cambia completamente. Le strutture pubbliche sono tutte implose da tutte le parti con le invasioni dei barbari, la Chiesa si trova ad essere la struttura anche civile più forte. E quindi ecco che la storia del cristianesimo orientale è una cosa, quella nell'Occidente è tutt'altra. Se voi pensate per esempio alla nascente organizzazione dei poteri civili a partire dall'anagrafe, quello che noi chiamiamo l'anagrafe, in Occidente suppliscono le parrocchie con i registri delle nascite, e anzi voglio dire che tutto il fondamento dell'organizzazione civile dell'Occidente nasce da questa capacità della Chiesa, di supplire la fine dei poteri civili. Mano a mano che ci inoltriamo dal mondo premoderno a quello moderno, cambia la rappresentazione del rapporto tra l'uomo e la divinità, cambia proprio il modello della religione. Non è più la religione un fatto della società, con una struttura all'interno di questa società convertita che a sua volta è come esemplata sull'apparato dello Stato, la Chiesa è una struttura gerarchica, come lo Stato è un apparato gerarchico, è significativa la consapevolezza che quelli avevano, non prestiamo noi storici a distanza di secoli, no, la contemporaneità ci dice la consapevolezza di questa struttura bifida in qualche modo, perché si parla della Chiesa come cattolica lex, cioè come un ordinamento giuridico che ha la sua legge, che si oppone invece alla legge imperiale, perlomeno si distingue dalla legge imperiale. In realtà c'è sempre una sorta di antagonismo per una egemonizzazione reciproca dell'una e dell'altra. L'ex l'una, l'ex l'altra, dunque si tratta di un confronto tra ordinamenti con la loro intrinseca giuridicità. Siamo agli ordini distinti che è una delle categorie che voi adoperate oggi. Gli ordini, ciascuno nel suo ordine, la distinzione degli ordini. Però contemporaneamente la modernità vede al posto di questo assetto di due grandi apparati ordinati ad organizzare l'universalità della convivenza, guardate bene, l'universalità, perché diciamo la meta ambiziosa di dominio e della Chiesa e dello Stato è la medesima, organizzare la collettività, e si sostituisce in un rapporto individuale, personale, appunto, che poi all'interno della civiltà liberale questa costruzione porterà a considerare la religione fatto privato, da chiudersi nelle pareti domestiche, addirittura quasi come se tendenzialmente si volesse negare la pubblicità del culto, la pubblicità della propaganda della fede. Anche qui con gli storici sono in grado di vedere i paradossi, e io esorto anche i miei colleghi contemporaneisti a lavorare con i paradossi, perché badate che uno dei primi atti di Costantino fu di dire a Ruspici: io non vi vieto, ma fatelo dentro le vostre case, nel segreto delle vostre case. Beh, insomma, era un po' il sogno della civiltà liberale di vedere la religione chiusa, ciascuna nella propria casa. Per quale ragione? Da un lato sì, c'è la proclamazione di questa assoluta libertà della coscienza religiosa anche rispetto alla propria religione. Quindi evitare tutti quegli momenti di coercizione che pure esistono dentro una organizzazione ecclesiastica dell'esperienza religiosa, ma dall'altro c'è il tentativo di mettere tutti sullo stesso piano. Guardate bene che l'Europa ha vissuto una lunghissima vicenda multisecolare di guerre di religioni, l'ultima delle quali è quella dei 30 anni, che si chiude con un trattato del 1648 in cui la libertà di coscienza è seppellita, perché dire che ogni suddito deve professare la fede del suo sovrano territoriale, beh, significa che abbiamo concluso, no, non esiste più la libertà di coscienza. E quando si racconta del viaggio di Giordano Bruno, che da Nola e quindi da Napoli, perché lui era nel convento dove aveva vissuto San Tommaso d'Aquino nel tempo di Federico, e doveva andare a Londra, ad ogni frontiera faceva apostasia per salvarsi dal sovrano, che quello calvinista, quello luterano, quello pensate al trauma che si tramanda nel tempo. Guardate che tutto quello che avviene nel tempo, anche secoli fa, non è che si perde. Noi consapevolmente o non consapevolmente siamo ancora influenzati che cos'è stata la notte di San Bartolomeo per i francesi. E cos'è stato il lungo periodo sanguinosissimo delle guerre dei trent'anni? Allora, ecco che una cultura che volesse uscire da questa eredità non poteva che pensare appunto ad una religione nascosta in cui ognuno si teneva la sua e la piena più totale libertà. È una posizione realistica questa? Ecco, voglio dire che tutta la discussione che avete raccolto negli atti di questo convegno gira intorno a questo apice. Libertà di religione e la libertà di intrattenere la propria fede personale, oppure è la libertà della propria chiesa o al limite setta, di una identità collettiva, non di una identità personale. Questo è il punto. Ho parlato fin troppo, come purtroppo mi accade quando la cosa mi appassiona, perché come dicevamo con Elena prima, il fatto che siano venuti prima ancora dell'orario e che questi sono temi sentiti. Che cosa accade oggi quando pensiamo ad una legge generale? Guardate, quando noi diciamo legge generale, usiamo un termine un po' costruito convenzionalmente, perché non vogliamo dire né legge organica che non abbiamo nel nostro sistema, né la legge, non è completamente la stessa cosa di dire la legge quadro. Vogliamo dire con generale, già anticipando il merito dei contenuti, che di fronte alla legge, è quello che nella Costituzione si dice, di fronte alla legge tutte le confessioni sono uguali. La legge generale significa che questa è una legge per tutti. Ma voi pensate che sia possibile fare una legge in cui, generale sulla libertà religiosa, in cui si sia fermi al paradigma che la libertà religiosa è un rapporto intimistico e personale di ciascuno, di ciascuna coscienza individuale? Non è possibile. Anche perché si vuole proprio uscire da un'altra eredità recente, che è quella dello Stato risorgimentale e poi fascista, ereditato, insomma il 29 è l'anno in cui si tirano tutti i fili che però si erano cominciati a tessere già da tempo, di avere da un lato nella distinzione degli ordini la Chiesa e lo Stato. Il che significa, in distinzione degli ordini, che ci sono due stati, uno sui generis e un altro invece, totalmente legittimato nella sua natura e nei suoi fini. E dall'altra parte ci sono i culti ammessi, la legge successiva ai trattati del Laterano introduce questa terminologia che sostituisce l'altra dei tollerati, quella per quanto riguarda il sistema italiano di tradizione albertina. E immaginate che sia possibile conservare questo equilibrio? Non è possibile, perché lo Stato fondato dalla Costituzione 48 non ha niente a che fare con la tradizione dello Stato risorgimentale e quindi di tutta la cultura dell'Europa allora, che poteva considerare la Chiesa sovraordinata e quindi con una posizione privilegiaria rispetto allo Stato, mentre tutti gli altri culti così erano un po' i rottami, no, di questi conflitti religiosi. Perché non è possibile? Per ragioni puramente ideologiche, lasciamo da parte, io sono un po' dubbioso sempre che nella esplorazione dello storico debbano avere tanto peso le questioni ideologiche. Ci sono altre questioni. È cambiata la società, è cambiata la cultura di questa società, è cambiata la composizione etnica e culturale di questa società. Noi siamo stati abituati a pensare, l'Italia, forse anche in questi ultimi tempi, non ne parliamo, tutto quello che si è scritto per il 150 centenario dell'unità, siamo pensati come una nazione omogenea. Innanzitutto non esistono nazioni omogenee, ma abbiamo avuto proprio tra i fondatori, in qualche modo, del nuovo Stato repubblicano, un De Gasperi che aveva portato con sé sempre vivo il ricordo dell'esperienza dell'ultimo grande Stato multinazionale che l'Europa ha avuto, cioè l'Impero Austro-Ungarico. Lui ha dei saggi in cui scrive quasi con lo scrupolo dello statistico di quante minoranze linguistiche e religiose si erano composti gli Stati in Europa. Cioè aveva il senso che quella non era una fase conclusa, anzi quella era la fase d'inizio. Noi ci siamo incamminati con scarsa consapevolezza su questa strada di una nuova mescolanza di culture, di etnie e di tradizioni anche religiose. Neanche il computo delle minoranze linguistiche, noi ci siamo fermati soltanto alle tre grandi minoranze, quella italo-francese, quella italo-austriaca, quella italo-slava, ma quante ce ne sono altre in Italia? Ce ne sono solo un'infinità, basti pensare in Italia meridionale, i gruppi albanesi, i gruppi greci, molti gruppi che non hanno nessuna ancora rilevanza istituzionalizzata di tradizioni mediterranee, arabe. Gli antichi però erano più realisti dei moderni, perché se pensate ai tempi di Federico II le leggi a Palermo erano pubblicate in greco, latino ed arabo, quindi la rilevanza di questi gruppi all'interno era molto molto tutelata, riconosciuta non solo, ma tutelata. E in questo mutamento oggettivo si può più parlare di una religione cattolica che il vecchio stato confessionista faceva sua perché era la religione del popolo italiano? No, perché la religione cattolica è di una parte del popolo italiano, non è di tutti gli italiani. Però gli altri come possono essere messi in questa condizione di parità? Per un atto puramente formale, no? Così come nelle costituzioni rivoluzionarie francesi si diceva appunto la loi c'est la même pour tous. Ma anche lì c'era un problema di rompere tutta la frantumazione della società, no? Tutte i ceti, le caste. Ma qui le cose non sono rivolte all'indietro, sono rivolte al futuro, perché questa diversità, questa molteplicità cresce e crescerà sempre di più. Questi che entrano, come occorrerebbe fare, come si fa nelle indagini di marketing, andare a interrogarli? Chiedono la libertà di coscienza o invece il rispetto delle loro identità collettive? Questo è il problema che ci poniamo. Io finisco qua con una domanda che resta nell'aria. Grazie mille. Un vivissimo ringraziamento al professor Casavola che ci ha fatto uno splendido excursus storico, ma poi è arrivato ai problemi dell'oggi che toccherà agli altri in qualche modo affrontare. Volevo dire soltanto a chi sta in piedi che c'è ancora un paio di posti qui davanti, e poi forse, professor Tozzi, diamo lettura del messaggio del Quirinale, visto che è stato invitato il Presidente della Repubblica, ha fatto rispondere in questo modo al professor Tozzi, che è l'organizzatore di questo incontro. Gentile professore, la ringrazio a nome del Presidente della Repubblica dell'invito alla presentazione del volume che raccoglie gli atti del seminario di studio proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose tenuto presso l'Università di Salerno nell'ottobre 2009. Impegni definiti da tempo non consentono di accogliere la sua cortese richiesta. Il Presidente Napolitano, che in più occasioni ha sottolineato l'importanza del contributo delle religioni alla crescita spirituale e morale della società, auspica che l'approfondimento dell'analisi della dimensione personale e sociale della libertà religiosa possa concorrere alla piena affermazione dei fondamentali principi di dialogo e pacifica coesistenza tra persone e paesi di diversa storia culturale e politica. Il Capo dello Stato rivolge a lei, curatori dell'opera, quanti prenderanno parte all'iniziativa, un cordiale saluto. E questo infatti il problema è che non è soltanto una questione di libertà di coscienza, ma è qualche cosa di più. La parola al professor Onida, prego. Grazie, ma io riprenderò esattamente dal punto in cui ci ha posto la riflessione, con molto minore, come dire, profondità e ampiezza, in cui ci ha posto la riflessione Franco Casavola, premettendo però che mi pare dobbiamo salutare con favore un volume, tra l'altro il cui titolo è bello perché è proposta di riflessione. È bello che un libro si intitoli proposta di riflessione, perché oggi poco si riflette, molto si scrive, anche forse troppo si scrive, si afferma, si dice, ma poco si riflette, quindi una proposta di riflessione. E si colloca, vorrei dire, in questa nuova stagione del diritto ecclesiastico. È una visione ottimistica in sostanza, al fondo, abbastanza ottimistica, in una stagione invece del diritto ecclesiastico che potrebbe apparire una, in parte forse è una stagione di forte regresso, perché dopo la lunga era della quella che io chiamerei la costituzionalizzazione dei problemi della religione della Repubblica Italiana attraverso prima di tutto la giurisprudenza ordinaria, ma soprattutto la giurisprudenza della Corte Costituzionale, e quindi la costituzionalizzazione che ha portato a sistemare quello che appariva un corpo estraneo, il concordato, nell'ambito dei principi costituzionali, e poi sul piano della giurisprudenza, poi anche l'opera legislativa, la revisione del concordato e la stagione delle intese degli anni 80. Ecco, rispetto a questa, che è stata la stagione della costituzionalizzazione, potremmo dire, del diritto ecclesiastico nuovo, repubblicano, oggi invece siamo entrati ormai da tempo in una stagione nuova, che è caratterizzata, come sa benissimo chi è in prima linea, come Roberto Zaccaria, da tempo lavora sul campo, dalla paralisi dei nuovi strumenti, il blocco delle intese, nuove intese che non si fanno o che non si approvano, e dalla forte ripresa nel dibattito politico e negli atteggiamenti sociali di atteggiamenti che potevano considerarsi ampiamente superati ormai, gli atteggiamenti di vera e propria esplicita discriminazione religiosa, sia pure non più come negli anni 50 avveniva per prassi poliziesche combattute dai costituzionalisti nei confronti delle minoranze cristiane, ma oggi nei confronti delle altre grandi religioni, in sostanza dell'Islam, collegandosi ai noti fenomeni di nascita di una società interculturale, interreligiosa. E direi quindi in questa stagione che può apparire una stagione veramente di vero e proprio oscuramento, di vero e proprio oscurantismo, potremmo dire, perché sembra di sentire di aver fatto dei grandi passi indietro, quelli che apparivano traguardi raggiunti sembrano rimessi in discussione, e questo libro ci invita a riflettere, quindi è una cosa molto buona. E direi il punto di partenza è in effetti quello che ci ha offerto Franca Casavola, la libertà religiosa come diritto fondamentale della persona. Valerio Tozzi insiste su questo punto proprio nella sua relazione introduttiva, di un diritto fondamentale della persona rivendicato nei confronti dello Stato del potere pubblico, certamente, secondo la tradizione liberale, ma direi anche nei confronti di qualunque organismo e organizzazione anche confessionale, cioè la libertà del singolo. E quindi per esempio quel no esplicito, che ancora una volta esplicita Valerio Tozzi nella sua introduzione, no a qualsiasi forma di pubblicizzazione del rapporto di appartenenza confessionale, che faccia apparire l'appartenenza confessionale come una sorta di statuto pubblicistico, quale nel passato è stato tante volte, e di cui ovviamente derivano una serie di conseguenze sul piano dei diritti fondamentali, dei diritti individuali, il diritto a uscire, a lasciare qualsiasi religione, il diritto all'apostasia, potremmo dire, il diritto alla conversione, che come noto per noi questo forse è un'acquisizione definitiva, ma per altre visioni politico-religiose non è. Negli stati islamici è invece fortemente contestato questo diritto alla conversione. Ecco, questa è in fondo questa della libertà religiosa così intesa, il diritto fondamentale della persona, è la materia tipica delle leggi generali sulle cui opportunità ci si invita a riflettere. Però è anche vero, e lo ha detto Franco Casavola, che tutti i diritti, ma direi in modo speciale quello di libertà religiosa, hanno una loro proiezione collettiva, che riguarda quindi non più l'individuo ma le formazioni sociali. E non c'è dubbio che nella nostra tradizione giuridica il fenomeno religioso e quindi anche i rapporti dello Stato con la religione sono visti non solo come un problema di libertà religiosa, come poteva dire il Presidente Roosevelt nel suo famoso discorso del 41, libertà religiosa come diritto di ciascuno di adorare Dio a proprio modo. Insomma, questo era il diritto che ciascuno possa adorare Dio a proprio modo. Ma che è la visione appunto individualistica della libertà religiosa propria di uno Stato come quello americano, nato appunto in una sorta di pluralismo di fatto, e quindi per assicurare quella pace sociale, per assicurare la priori, insomma, che la pace sociale che altrimenti sarebbe stata fortemente compromessa dalla rivalità e dal contrasto fra gruppi religiosi diversi. Ma in ogni caso invece nella nostra storia, nella nostra tradizione europea, anche repubblicana, questo problema della proiezione collettiva del fattore religioso, quindi quello delle formazioni sociali, è molto fortemente presente. Tant'è vero che il nostro articolo 19 proclama il diritto alla libertà religiosa, ma anche di professare la fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata, quindi sottolinea subito questo dato anche comunitario, potremmo dire, e aggiunge il diritto di esercitarne il culto, esercitare il culto della propria fede. Il culto, certo, può essere anche un culto individuale, però il culto per lo più, tant'è che poi si parla subito di riti, e i riti sono per definizione quasi collettivi, il culto è per lo più un fenomeno collettivo. Direi uno dei fili rossi che mi pare attraversano un po' tante relazioni di questo libro, che è molto fortemente presente nelle parole scritte da Valerio Tozzi, è una sorta di polemica su un assetto dell'ordinamento che gli dice sarebbe ancora di privilegio per le confessioni, intese come specifiche organizzazioni religiose, rispetto invece a quelle che gli chiama formazioni sociali di carattere religioso, proponendo una differenza, ecco, che non so fino a che punto regga dal punto di vista costituzionale, questa idea che insomma c'è una libertà delle formazioni religiose, delle formazioni di carattere religioso, che non ha a che fare col carattere fortemente istituzionalizzato di una confessione che ha stipulato un'intesa che entra in rapporto con lo Stato, cioè c'è un fatto di libertà religiosa, anche collettiva mi pare di capire, che precede e in qualche modo condiziona qualunque forma di istituzionalizzazione, quindi qualunque forma anche di accordo, di intesa con lo Stato. È chiaro che mi pare abbia ragione Valerio Tozzi quando propone questa veduta, se significa che anche che la libertà religiosa costituzionalmente sancita ha una proiezione collettiva in termini di libertà ancora, cioè non in termini di istituzionalizzazione del fenomeno religioso, quindi non della libertà della istituzione religiosa, della Chiesa, ma in termini di libertà del gruppo religioso, della formazione sociale religiosa. Questa è ancora libertà, una libertà che non va cercando intese con lo Stato, ma chiede spazi appunto di riconoscimento e di agibilità. Naturalmente questo significa che non è irrilevante anche l'aspetto comunitario, anche per il diritto l'aspetto comunitario, ma significa appunto che ci si mette in termini di libertà, e la libertà è quella per esempio che la nostra Costituzione sancisce come libertà di auto-organizzazione nell'articolo 8, quando parla di possibilità di darsi i propri statuti, se nei limiti, ovviamente in accordo con l'ordinamento giuridico, ma qualunque forma di libertà si esercita nei limiti dell'ordinamento giuridico. E quindi diciamo dovrebbe avere questa proiezione in termini di divieto di ingerenze pubbliche e qua anche di ingerenze giudiziarie, intendiamoci, cioè i giudici che entrano a dire che cosa succede in una certa formazione sociale, se c'è stata rispetto delle regole interne. E questo è un grande tema che riguarda non solo le formazioni religiose, riguarda tutti i fenomeni comunitari, i fenomeni associativi, quanto può lo Stato ingerirsi nel disciplinare la vita delle associazioni, delle libere associazioni, quanto può il giudice andare a dire se è stata rispettata la legge interna dell'associazione, lo statuto, e quindi sovrapporsi alla libertà del gruppo. È chiaro che ci sono dei punti in cui l'ingerenza è indispensabile, quando la libertà dell'organizzazione, la libertà collettiva andrebbe a confliggere con una libertà individuale, quella della persona, perché è chiaro che se un'organizzazione qualsiasi nell'esercizio della sua libertà pone in essere condotte tali da attentare al diritti fondamentali del singolo, un po' come quando, non so, la stessa famiglia, se è attenta al diritto fondamentale del minore, è oggetto di intervento repressivo, comunque di un'ingerenza pubblica. Però appunto è un punto delicato questo, perché qualche volta siamo portati a ritenere che l'ingerenza possa andare molto oltre, che se c'è un giudice, se c'è un diritto, si possa andare fino in fondo, e no, invece si può andare, l'ingerenza è giustificata soltanto se si tratta di difendere i diritti della persona, indispensabili, diciamo così, ma non quando ci si voglia immaginare una sovrapposizione della legge dello Stato e quindi del giudice dello Stato alla vita, all'articolazione libera della vita interna dell'organizzazione, perché qui c'è una, come dire, un'incompetenza assoluta dello Stato, che è quella che nell'articolo 7 si esprime parlando di distinzione degli ordini, cioè. Ma lo stesso problema vale in fondo per qualunque altra forma associativa. Nel caso della formazione di tipo religioso è particolarmente rilevante là, perché ci potrebbe essere un'indiretta ingerenza dello Stato anche negli aspetti di coscienza, diciamo così. Ma di per sé nel diritto costituzionale repubblicano lo stesso problema si pone nei confronti di tutte le formazioni sociali, quindi il tema dell'autonomia delle formazioni sociali di fronte allo Stato. Naturalmente c'è anche il tema, e questo è ancora una volta sottolineato nel libro, della necessaria accessibilità, si dice, uso ancora parole di Valerio Tozzi, alle garanzie e agli interventi promozionali che lo Stato ponga in essere, della necessaria accessibilità ai gruppi religiosi in quanto tali in condizioni di eguaglianza. È il tema centrale dell'eguaglianza, quindi io non so se si possa distinguere confessioni da non confessioni, ma certamente il tema dell'eguaglianza è un tema di fondo qui, l'eguaglianza delle confessioni, io direi, ma Valerio Tozzi preferirebbe dire delle formazioni sociali di carattere religioso. Se posso fare una piccola osservazione, Valerio Tozzi parla di una timida reprimenda della Corte Costituzionale sul punto della estensibilità o non estensibilità dei benefici economici che lo Stato riconosca alle confessioni religiose. A proposito di quelle pronunce, sono due, una del 93 e una del 2002, che hanno censurato la scelta di legislatori regionali di prevedere una legislazione promozionale, quindi contributi pubblici, contributi economici pubblici a favore, per la costruzione di edifici di culto, ma li avevano limitati ai culti di confessioni aventi intesa con lo Stato, escludendone quindi automaticamente tutte le altre confessioni o gruppi religiosi privi di intesa. E su questo la Corte è intervenuta proprio restaurando quella idea invece di libertà dell'organizzazione religiosa in quanto e di uguaglianza, perché ha detto il fatto che si stipuli un'intesa è un fatto che è previsto nel nostro ordinamento, ma non è un obbligo. Poi ci sono gruppi religiosi che non desiderano accedere al regime dell'intesa, ma questo non toglie che rimane un regime di uguale libertà, articolo 8 primo comma, per tutti, e che in questo regime di uguale libertà lo Stato non può fare delle forme di privilegio dando i soldi per costruire chiese cattoliche o templi valdesi o sinagoghe ebraiche e non darli per la costruzione di moschee islamiche o di templi dei testimoni di Geova, per citare due culti che non hanno l'intesa con lo Stato. E non mi pare che, insomma, è molto chiaro questo indirizzo della giurisprudenza costituzionale, non lascia scappatoie, per così dire, si fonda proprio su quella idea che la libertà anche sul terreno collettivo, quindi anche di fronte a interventi promozionali, è una libertà piena e da esercitarsi in termini di uguaglianza. Naturalmente questo non significa che qualunque, come dire, richiesta motivata da ragioni religiose anche di un singolo o di un gruppo del tutto privo di consistenza sociale possa accedere a benefici statali. Quello che si richiede anche in queste leggi è che ci sia un minimo di, come dire, non di radicamento sociale nel senso di appartenenza alle tradizioni, perché questo non può escludere, neanche un controllo ideologico sul, ma un minimo di effettiva presenza, di un nucleo sociale, insomma, cioè che il gruppo religioso si esprima come nucleo sociale che esprime una domanda, un bisogno collettivo, perché quando si tratta di costruire un edificio di culto, per definizione è un bisogno collettivo, non è che uno si costruisce l'edificio della chiesetta o la sinagoghetta o la moschetta per sé, per il proprio individuo. È una tipica, quella degli edifici di culto è un tipico bisogno collettivo riconducibile alla libertà religiosa nella sua dimensione collettiva. E allora hanno ragione gli autori del volume a denunciare le discriminazioni che ancora oggi sono in atto, per esempio la difficoltà a ottenere, a poter concretamente costruire edifici di culto per culti appunto diversi da quelli che lo Stato da tempo ha legittimato pienamente attraverso le intese, perché tutti sanno che per esempio su questo tema della costruzione delle moschee negli ultimi anni, ecco, questo è uno dei segni di regresso più grossi che abbiamo avuto. Noi assistiamo quasi tranquillamente, ascoltiamo discorsi che non hanno cittadinanza nell'orizzonte costituzionale, quando si dice deve decidere il governo se si fa o non si fa una moschea, oppure secondo noi, dice il sindaco, il vice sindaco, non serve una moschea perché i fedeli sono pochi, oppure fatela, sì, ma piccola, oppure... Questi sono discorsi che proprio nell'orizzonte costituzionale non hanno nessuna cittadinanza. L'edificio di culto è tipica appunto strumento che usa la comunità religiosa e l'espressione di un bisogno del collettivo, e quindi è un fenomeno di libertà dove non è affatto detto che lo Stato debba metterci dei contributi economici. Può benissimo astenersi dal farlo, ma se lo fa deve trattare tutti allo stesso modo, e soprattutto non può mettersi a sindacare se l'edificio di culto possa essere realizzato o no, dove possa essere realizzato, se no questo ovviamente nell'ambito della disciplina urbanistica che vale per qualunque edificio, e quindi anche per gli edifici di culto, né per dire se deve essere piccola o grande, se deve servire agli scopi di 3.000 persone o di 15.000. Ecco, quindi questo direi un forte richiamo alla palese incostituzionalità, vorrei dire, delle posizioni che spesso sentiamo esprimere sulle moschee, sulla costruzione di moschee, e mi pare un richiamo di strettissima attualità. Anche l'idea che ogni tanto emerge di regolare l'uso delle lingue nelle moschee, si dice sì, fate le moschee, ma i discorsi devono essere fatti in italiano invece che in arabo, suppongo, perché non fossero fatti in francese o in inglese, non credo che sia il latino per me, vabbè. Ma anche quello non ha cittadinanza nella Costituzione. E perché mai? Tra l'altro la nostra Costituzione, l'articolo 3, dice eguaglianza senza distinzione di lingua, e le minoranze linguistiche sono riconosciute. Quindi come si può dire no, voi potete riunirvi, potete esercitare il culto in pubblico, ma non potete esercitare un culto che si esprime in una lingua diversa dall'italiano? È incredibile, è impensabile nel nostro sistema costituzionale, eppure lo sentiamo tranquillamente affermare, forse addirittura entrare in qualche progetto di legge, ce lo dirà Roberto Zaccaria. Ecco, io credo quindi che un grande merito di questo libro sia quello di richiamarci alla necessità di riprendere le basi della libertà religiosa, non solo nella sua dimensione individuale, ma anche nella sua dimensione collettiva, ed è qui che si colloca il discorso della legge generale. La legge generale, che appunto da tempo auspicata e fino adesso non realizzata e non sembra all'orizzonte, poi ce lo dirà Roberto Zaccaria, che richiederebbe ovviamente un clima completamente diverso, cioè riprendere quei fondamenti, quei fondamentali del diritto costituzionale che appunto invece vengono stracciati da quel tipo di discorsi, richiederebbe ovviamente un clima completamente diverso da quello di contrapposizioni assolute e frontali e di scontro di civiltà quale sta dietro ad alcune di questi atteggiamenti. È chiaro che questo della legge generale sarebbe un'esigenza tipica di una legislazione di cui noi oggi stiamo perdendo le tracce, cioè una legislazione che dovrebbe avere il suo luogo tipico in Parlamento, non appartenere agli indirizzi politici di governo. Questa sarebbe la tipica legislazione parlamentare. Noi un tempo l'avevamo, è stata la legge sul divorzio, è stata una legge approvata in Parlamento in presenza di un governo in cui il partito maggiore era contrario alla legge sul divorzio, eppure si è convenuto tra le forze politiche che quello fosse un tema per il Parlamento e non per l'indirizzo politico. Ecco, questo il tema delle libertà religiose, e anche per esempio quindi della legge generale sui culti, è un tipico tema, e questo naturalmente spiega perché non sta all'orizzonte della nostra attività legislativa, perché noi oggi abbiamo quasi perduto l'idea che possa esistere una legislazione parlamentare estranea all'indirizzo di governo, quindi su cui il governo non avrebbe niente da dire, Abbiamo anche tranquillamente ammesso che il governo proponesse di riforme costituzionali, quando la Costituzione è proprio la materia tipica che dovrebbe sfuggire agli indirizzi politici di governo. Chissà se si riaprirà una stagione diversa. In questo quadro è evidente allora che anche lo strumento delle intese è congelato, perché le intese sono, io credo, restano strumento valido per disciplinare, come si dice anche in questo volume, per disciplinare le specificità delle singole confessioni religiose che ritengono di voler accedere a un regime di diciamo concordatario, per usare un termine generico. E qui c'è tutto da tempo, gli studiosi hanno identificato pregi e limiti di una legislazione speciale attraverso intese, in fondo i tre livelli a cui si colloca una disciplina delle religioni e delle organizzazioni religiose nel diritto del nostro Stato, per esempio in quel volume di una giovane costituzionalista, Barbara Randazzo, in cui si studia proprio il rapporto fra le confessioni religiose, viene messo molto bene in chiaro questa esistenza di tre livelli: il livello degli accordi, il concordato e le intese, il livello delle norme generali che riguardano tutti i culti, che oggi sta in parte in quel diritto comune delle intese, che molti hanno notato essere un po' un fuor d'opera, nel senso che se si fanno tante intese per dire sempre la stessa cosa non ha senso, e invece dovrebbe esserci una legge generale che vale per tutti, e poi il diritto comune, e là è un altro dei grandi confini, cioè che cosa delle organizzazioni religiose richiedono una disciplina giuridica speciale, comunque diversa da quella, e quando invece delle attività delle organizzazioni religiose è giusto che sia soggettata semplicemente al diritto comune delle associazioni, per esempio in materia tributaria, e tante altre. C'è un ultimo punto che vorrei, prima di finire, accennare. Nel volume si parla anche del tema delle comunità religiose e del rapporto con lo Stato quando si discute dei cosiddetti temi etici, cioè il problema delle interferenze fra religioni e organizzazioni religiose e questi. Ecco, da questo punto di vista io credo che dobbiamo però affermare con chiarezza che se il discorso è sui temi etici che richiedono legislazione, qui la religione non può essere un fattore determinante. I temi etici sono temi della società, cioè la vita, la morte, il diritto alla vita e la sua tutela, il diritto alle cure o a rifiutare le cure. Tutto questo appartiene certamente alla sfera, in qualche misura alla sfera del diritto, poi si tratta appunto di discutere fino a dove deve arrivare il diritto, dove invece deve lasciare. Ma non è. Noi siamo un po' certe volte un po' deviati dal fatto che spesso ci sono interventi di organizzazioni religiose, la Chiesa cattolica ma anche altri, sul tema, e che è giustissimo che ci siano, ma qui le confessioni religiose, le organizzazioni hanno pieno diritto di intervenire, ma non in quanto portatrici di esigenze specifiche della religione o della comunità religiosa, in quanto, potremmo dire, agenzie sociali, in quanto, se vogliamo arrivare a dire, lobbies, nel senso buono, cioè di gruppi sociali che, avendo forti connotazioni etiche e forti convinzioni, hanno il pieno diritto di partecipare alla discussione sul modo in cui l'intera società si atteggia di fronte a temi delicati di questo genere. Qui non è, insomma, vorrei dire, questo tema non è un tema di politica ecclesiastica, questo è un tema di politica dei diritti, di politica di limiti dell'intervento pubblico e di modi dell'intervento pubblico, che ovviamente si può e si deve avvalere dell'apporto culturale e della spinta sociale che viene da organizzazioni che hanno particolare sensibilità sul tema, tra le quali certamente ci sono in prima fila le organizzazioni religiose, ma non è un tema di rapporto con le organizzazioni religiose, questo è un tema della società, se si debba e come si debba, e se si debba adottare la linea sui vari aspetti, la linea delle leggi impositive o delle leggi permissive. Anche qui Valerio Tozzi fa riferimento a questa nota tesi di Leopoldo Elia sulle opportunità laddove c'è pluralismo ideologico, culturale, e laddove non ci sono interessi ritenuti stringenti da parte della società, ad adottare leggi permissive, cioè a consentire diversi atteggiamenti, con tutta la tematica collegata dell'obiezione di coscienza e così via. Insomma, qui si tratta di scelte delle comunità, le religioni possono giocare un ruolo, debbono, ecco, io sarei contrario alla tesi dell'ingerenza indebita, ecco, non c'è nessuna ingerenza indebita quando un'organizzazione religiosa interviene su questi temi, perché si tratta semplicemente di una delle presenze nella discussione culturale, nella discussione politica, come di qualunque altra presenza sociale. Sono temi che interessano tutta la società e quindi è giusto che ciascuna parte, ciascun pezzo di società possa esprimere fino in fondo il suo ruolo. Non è però un problema di speciali rapporti con determinate organizzazioni. Le religioni possono giocare un ruolo influendo sulla cultura collettiva e proponendo soluzioni su cui si dovrebbe realizzare una convergenza pratica, e da questo punto di vista si può anche sul piano culturale dire che diciamo, le religioni, le grandi religioni o comunque le organizzazioni religiose e le organizzazioni che fanno capo alla religione possono avere un ruolo positivo nel creare o consolidare una coscienza collettiva unitaria, cioè nel creare una coscienza collettiva della civitas. Credo che sia innegabile questo, e tra l'altro nel mondo contemporaneo abbiamo assistito a fenomeni per i quali certi obiettivi perseguiti e in parte raggiunti di una coscienza comune dell'umanità hanno dovuto molto e debbono molto alla spinta anche delle religioni. Cioè, l'operazione come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48 dell'ONU, io non credo che sarebbe stata possibile se non ci fosse stata una forte, come dire, presenza e anche una spinta culturale, potremmo dire fortemente influenzata da filoni religiosi, cioè l'idea dell'eguaglianza fra gli uomini in sostanza, e quindi dell'idea che ci sono dei diritti inviolabili di qualunque essere umano. E quando oggi si mette in discussione la possibilità stessa che esista una dichiarazione universale, perché se ci sono culture tra di loro del tutto incompatibili, si mette in discussione invece un assunto che io credo sia alla base non solo di una visione religiosa, è un assunto che sta a base della stessa possibilità che si costruiscano società fra gli uomini, e una società, e poi che la famiglia umana, come si usa dire, sia anche essa stessa costruibile come società e non semplicemente come luogo di scontro estremo di civiltà. Grazie. Grazie moltissimo al professor Onida che ci ha immesso proprio nelle questioni di attualità, e adesso credo che sulla stessa scia sentiremo le osservazioni del professor Zaccaria. Prego. Sì, il mio compito è per un certo verso agevolato dalle due introduzioni che Casavole e Onida hanno dato, come dire, in qualche modo ampiezza e anche profondità le cose, diciamo, che sono trattate in questo libro. Io dirò una cosa, cioè secondo me il libro non dal punto di vista scientifico ma dal punto di vista pratico per me ha un limite forte, cioè è arrivato 3 anni dopo, cioè no, vi spaventavate che io facessi una valutazione, no, ci mancherebbe. Cioè, devo dire, se io questo libro l'avessi avuto nel 2006, cioè il seminario, voglio dire, poi il libro è arrivato ancora, però insomma, forse le cose sarebbero andate un po' diversamente, perché insomma noi dobbiamo tener conto di un dato che non è trascurabile, che quando nella quindicesima legislatura si è affrontato e c'erano le condizioni per affrontare un discorso, non si sapeva all'inizio della legislatura che sarebbe durata 2 anni ovviamente, ma c'erano le condizioni, tutte le condizioni per riprendere quel tema, noi avevamo un problema che non era trascurabile, quello di lavorare, c'erano 2 proposte di legge in Parlamento, Boato e Spini, ma in realtà si lavorava su un'impalcatura normativa degli anni 90. Questo era l'elemento più difficoltoso che ci siamo trovati di fronte. perché insomma tra il 90 e il 2006 molte cose nel nostro paese erano cambiate, ed erano cambiate, voglio dire, non fosse altro, diciamo, per la dimensione assunta dal fenomeno collegato alla presenza dell'Islam nel paese e persone che in qualche modo si richiamavano e praticavano questo tipo di religione. Evidentemente un elemento che cambiava profondamente lo stato delle cose. Io ricordo che noi iniziamo subito con una grande audizione, chiamammo professori, colleghi, chiamammo le associazioni, chiamammo una grande, paradossalmente una sorta di stati generali dove sulla base dei testi precedenti e praticamente abbiamo avuto, per me è stato molto importante perché io ho potuto identificare anche alcuni colleghi con i quali poi è stato possibile dialogare durante l'elaborazione del nuovo testo. Quindi è stato un testo, adesso naturalmente alcuni di questi sono qui, altri, come dire, erano d'accordo, altri magari facevano delle critiche, però è stato un testo che è nato molto sulla base di un dialogo, diciamo, con l'università. E naturalmente all'inizio, naturalmente tra le confessioni che vedevano con interesse una legge di questo tipo, perché poteva dare regolamentazione a una serie di fenomeni che invece non l'avevano ancora, il ruolo che ha giocato la CEI fin dall'inizio è stato un ruolo di una certa apertura, cioè dire sì, certo, insomma, è inutile che si pratichi questa rincorsa alle intese. In fondo alcune di queste intese disciplinavano profili particolari, sullo sfondo di altre c'era un po' l'idea di accedere ai benefici economici, il 5 per mille o l'8 per mille, e quindi, come dire, la CEI disse, beh, insomma, ma perché dobbiamo per forza di cose far sì che tutti devono ricorrere all'intesa? C'era poi un problema pratico molto rilevante, che naturalmente l'Islam invece per le sue caratteristiche all'intesa non poteva arrivare, per la sua struttura, voglio dire, e quindi difficilmente sarebbe potuta arrivare a quel tipo di modello. E quindi passano non molti mesi intorno ai quali si costruisce una legge generale. E qui è naturalmente lavorando su quello che c'era prima e lavorando ad immettere elementi, concetti, istituti in qualche modo nuovi che erano stati elaborati nel frattempo anche dalla dottrina. E questo è quello che diceva Valerio, è molto giusto, cioè io ricordo che c'era una sorta di rincorsa con il governo. Noi sapevamo che il governo aveva al lavoro un gruppo che io ogni tanto telefonavo a Palazzo Chigi per sentire, insomma, che come camminasse, perché naturalmente sarebbe stato un po' ridicolo trovare il punto di incontro troppo tardi, bisognava trovarlo presto. Però il governo alla fine preferì non presentare una proposta di legge, quindi non arrivò mai una proposta di legge, quindi lavorammo come iniziativa parlamentare. E naturalmente i vantaggi di una legge generale sono molto rilevanti, al mio modo di vedere. Prima di tutto perché si parla anche nel libro di questa idea dei vari livelli, cioè che disegnano in qualche modo questo quadro normativo di attuazione della Costituzione. Oltre il livello concordatario, il livello delle intese, che appunto spesso disciplinavano istituti simili e spesso avevano questa spinta di cui parlavo prima, poi una sorta di diritto comune. L'impostazione che abbiamo cercato di dare era in qualche modo elevare i piani più bassi, cioè lasciando le intese nella dimensione in cui erano, sostanzialmente una serie di discipline di singoli rapporti, confessioni-Stato, elevare con il registro delle confessioni religiose un livello al quale poteva accedere ad esempio anche l'Islam, a quel tipo di livello che dava la possibilità di avere una sorta di statuto particolare. E lì ci siamo posti il problema del rapporto con l'analogo modello spagnolo, abbiamo cercato di fare un qualche cosa che potesse essere meno discrezionale nei suoi contenuti e più obiettivo, e al tempo stesso elevare anche il livello del diritto comune, cioè quindi, come dire, si portava più alto il diritto comune, più alto il diritto diciamo particolare delle discipline, delle confessioni registrate, e si lasciava un po' dormire la fase delle intese, cioè la si lasciava in qualche modo, cioè la si rendeva meno appetibile. Il 5 per 1000 era all'interno dello schema delle confessioni registrate. Il 5 per 1000. No. Stato esteso, beh, perché sì. Voglio dire, perché diventava difficile, perché se avessimo detto l'8 per 1000 per tutti, secondo me poi avremmo avuto dei problemi che abbiamo avuto poco dopo, per la verità. L'elemento quindi divisione, cioè, era molto importante, anche perché, poi l'abbiamo capito dopo, ma forse chi lavorava su queste cose lo aveva capito prima, in questa materia intervenire con una legge generale presenta degli elementi di grande interesse e consente di collocare alcuni istituti che, se affrontati e disciplinati separatamente, trovano una difficile collocazione normativa, cioè non c'è il vettore normativo che li supporta. Faccio due esempi: edifici di culto e burca, diciamo, il velo. Cioè, poi abbiamo visto dopo, nell'esperienza successiva, che affrontare questi argomenti come argomenti isolati diventava difficilissimo, e dirò qualche parola su queste cose. Però il punto fondamentale è che la nuova impostazione che nasce dal primo ciclo di audizioni e che porta a un testo unificato ha un elemento abbastanza significativo, che, di principio, ma che naturalmente compare subito nell'articolo 1, secondo comma, dove si dice: la presente legge si fonda sul principio della laicità dello Stato, al quale è data attuazione nelle leggi della Repubblica. Quindi lo schema, a meno che io vedevo, ma poi abbiamo discusso parecchio, era che c'è la Costituzione, ci sono i principi supremi della Costituzione, tra i quali c'è la laicità, che è stata, come dire, individuata, delineata dalla Corte Costituzionale, e a scendere, al momento in cui il legislatore disciplina questo fenomeno, c'è la legge sulla libertà religiosa, però il cui punto di riferimento è il principio di laicità. Questo è l'elemento, insieme ad altri minori, che ha fatto saltare la legge. Questo è l'elemento che ha fatto saltare. Questo elemento, ma non lo dico perché naturalmente lì per lì uno poteva pensare che fossero anche altri, però poi dopo, passando il tempo, uno capisce, e quello che insomma, questo fa parte della storia, quindi non c'è bisogno di andare a scomodare tanti altri. È una sequenza di prese di posizioni dopo un secondo ciclo di audizioni che noi facemmo nel luglio. Il testo fu presentato il 6 luglio del 2007 e praticamente il 16 luglio facemmo un nuovo ciclo di audizioni, grande entusiasmo, insomma, vorrei dire moderato entusiasmo forse, però certamente non diventare. No, ecco, la presa di posizione diciamo della CEI si ricava dall'avvenire. Il 5, libertà religiosa, primo sì tra le polemiche. Per la verità, le polemiche erano state certamente dell'opposizione, diciamo l'UDC aveva delle posizioni critiche, ma in quel momento era l'opposizione. L'Udeur, insomma, non so se l'avesse ben capita, ma insomma sostanzialmente c'era una, diceva: va bene, ma faremo degli emendamenti, ma questo di per sé non è che creasse problemi. Poi c'è un secondo pezzo, a firma Marco Tarquinio: non facciamo confusione tra i principi dello Stato, ancora un po' elevato. Il giurista, sempre l'Avvenire: discutibili i presupposti teorici. Il giurista è Francesco Marini, docente di istituzione di diritto pubblico all'Università di Roma Tor Vergata. È figlio di FS Marini. Poi si va un pochino più in là e si dice: libertà religiosa, un testo squilibrato. Il DDL ha gravi difetti dei provvedimenti precedenti, all'epoca si voleva evitare il continuo ricorso alle intese. Al punto che nell'audizione del 15 si dice: ma perché c'è bisogno di disciplinare tutte queste cose? Dopo che nelle prime audizioni si era detto: beh, meglio disincentivare le intese, il 16 di luglio 2007 si riscopre il valore delle intese. Insomma, dibattito se esista un diritto costituzionale all'intesa o meno, ma probabilmente non esiste, ma certamente le intese che prima erano da circoscrivere poi sono da valorizzare, perché questo testo non va bene. Che cos'è che non va bene di questo testo? Beh, essenzialmente non vanno bene una serie di cose, ma l'esordio di un pezzo sia la libertà religiosa ma senza relativismi. Sottotitolo: le osservazioni di Pettori sulla proposta in discussione, dice: l'introduzione singolare e forzata del principio di laicità come base di una normativa sulla libertà religiosa, e poi prosegue: i punti critici sono scanditi in maniera nettissima con una serie di serrate riserve alle novità assai incisive contenute nel testo. E il segretario della CEI ha subito espresso sorpresa e contrarietà per la sua introduzione, per principio di laicità, addirittura, virgolettato, quale fondamento di una legge sulla libertà religiosa. In realtà esso, principio di laicità, è una novità, essendo fino ad oggi estraneo al lessico normativo e non sancito da Costituzione o leggi ordinarie. Secondo il chiaro insegnamento della Corte Costituzionale, è il diritto di libertà religiosa che concorre a strutturare il principio di laicità e non viceversa. Beh, voglio dire, qui no, vabbè, questo, c'è un dibattito, però voglio dire, questa è stata, come dire, la sepoltura del testo normativo. Perché? Perché poi ci sono arrivati su questo testo un migliaio di emendamenti. Io ho fatto un atto nobile, anziché ritirarlo, ho fatto una dichiarazione in cui dicendo che si poteva in qualche modo tener conto di queste cose, ma insomma in realtà non si poteva proprio. Poi è arrivato Mastella. Allora, ma questo immiseriamo. Cioè, io quello che voglio dire realmente è il punto è questo. È un punto, poi naturalmente c'erano le obiezioni anche sulle norme relative agli edifici di culto, qualcosa che riguardava il matrimonio, se ne poteva parlare, insomma, certamente c'era. Ma a mio modo di vedere l'obiezione principale è questa: non si può mettere in una legge sulla libertà religiosa il riferimento al principio di laicità come fondante la legge sulla libertà religiosa. La posizione concettuale viene capovolta. Cioè la laicità scaturirebbe, cosa sulla quale io dopo molte riflessioni non ho cambiato idea naturalmente, però questo è, non so se storicamente sia stato un bene una impostazione di questo tipo. Certamente questa impostazione ha fatto saltare nella quindicesima legislatura questa ipotesi normativa di fare una legge generale, e naturalmente quell'esperienza poi naturalmente sarebbe forse finita anche per i due anni, perché forse in due anni non ce l'avremmo fatta comunque. Però nel luglio 2007 poteva in altre condizioni passare alla Camera, e forse avrebbe potuto anche passare al Senato nei sei mesi successivi. Naturalmente sono riesplose le intese, voglio dire, sono tutte parcheggiate al Senato e le intese non vanno avanti per motivi vari, intendiamoci bene. Noi abbiamo praticamente, ne sono passate in questa legislatura un paio, cioè le modifiche alla legge sui tavola Valdese e l'Unione Cristiana, dunque l'Unione della Comunità Ebraica, gli avventisti. Però ce n'è tutta una serie all'interno della quale però ci sono gli avventisti, una modifica. Però voglio dire, ce ne sono una serie di altre, tra i quali ci sono i testimoni di Geova, e naturalmente nel dibattito in Commissione al Senato hanno detto beh, bisogna farle oggetto di grandi modifiche. C'è Kant che ha detto ma no, non è la logica questa, noi non possiamo emendare le intese, e quindi si è fermata su questa questione di principio. Però il problema fondamentale, questo vorrei in questa seconda parte fare due considerazioni con voi su che cosa succede affrontare temi singoli, non leggi organiche. Naturalmente sono andate avanti due proposte di legge fortemente sostenute, o almeno apparentemente sostenute. Una sul divieto dell'uso del burka. Anche lì dibattito di grande rilievo, cioè il dibattito è un dibattito che c'è in tutta Europa, quindi voglio dire anche lì abbiamo riunito professori, non raggiungendo delle posizioni comuni, ma certamente mettendo in luce molto chiaramente che l'impostazione della legge, non solo per l'errore di grammatica di menzionare espressamente un certo tipo di abbigliamento religioso e farne oggetto di divieto, si presentava una vistosa obiezione di costituzionalità. Ma l'elemento principale, questo all'inizio non l'avevamo capito, poi alla fine un po' vedendo anche quello che avevano fatto i francesi, che pure avevano fatto una legge che aveva questo titolo, però non menzionava l'abbigliamento. Però il vero problema del divieto del burka, o comunque di indossare abbigliamenti che coprono interamente il volto della persona, nasceva dal fatto che si doveva utilizzare un vettore normativo che è una legge sulla sicurezza, la legge del 75 sulla sicurezza. Cioè, io ho presentato a quel punto, per evitare che il dibattito fosse semplicemente di tipo negativo, una proposta alternativa legata a una visione diversa, cioè non parlando di un tipo di abbigliamento religioso, ma parlando del divieto di un abbigliamento che copra interamente il volto della persona, con una finalità non di sicurezza pubblica, ma di, chiamiamola, civile convivenza, cioè un valore, cioè nella società uno può chiedere, senza sapere il motivo per cui porti un certo tipo di abbigliamento, ma che la convivenza civile ti possa dare allo Stato la possibilità di dire guardiamoci in faccia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Naturalmente è una forzatura, perché comunque usi un vettore che è quello di una legge che ha come finalità quella della sicurezza, e quindi, come dire, fai salire su una moto da corsa un bambino in fasce, insomma, cioè non puoi utilizzare quel vettore, mentre lo puoi fare una legge generale sulla libertà religiosa. Ma la cosa ancora più preoccupante è stata quella con riferimento agli edifici di culto. Beh, perché qui praticamente ci siamo trovati di fronte a una proposta di legge di provenienza Lega, ma soprattutto di fronte poi a un certo punto a una mozione in Parlamento, una mozione parlamentare a prima firma Roberto Cota, la cui conclusione, vi dispenso la lettura delle motivazioni, delle parti motivazioni, perché sono lunghe, ma perché probabilmente sarebbero facilmente leggibili. Impegna il governo ad attivarsi anche attraverso iniziative legislative urgenti per introdurre misure straordinarie di contrasto al terrorismo di matrice islamica. Quindi si parla di edifici di culto, e questa è la motivazione, che consentono l'immediata espulsione degli imam che anche solo nell'esercizio del culto, mettendo in essere comportamenti contrari ai principi dell'ordinamento giuridico italiano, contribuiscono a diffondere la cultura del terrore. Il terzo punto è che prevedono una moratoria per la costruzione di nuove moschee e centri culturali islamici. Io, quando sono intervenuto alla Camera, devo dire la verità che la prima cosa che ho detto, mi sono rivolto alla Presidenza della Camera, ho detto ma... cioè voi ritenete ammissibile, cioè se gli edifici di culto rientrano come una delle facoltà di una libertà costituzionale, cioè voi mettete in discussione, consentite che si discuta alla Camera dei Deputati una moratoria, quindi alias una sospensione di un diritto costituzionale. Naturalmente nessuno mi ha detto niente, però poi la mozione è stata insabbiata, non è andata avanti. Però voglio dire, ecco perché poi anche lì io ho ripresentato un testo sugli edifici di culto, che naturalmente ho visto nel volume, qualcuno ha criticato criticato, mi pare Mazzola, mi pare che abbia criticato, sì, perché dice, sì sì lo so ma lo devo dire, perché non potete dire qualcuno poi è lì, ah no, ma cioè io sono, cioè, dai tempi in cui con Barile si discutevano le tesi di laurea, cioè Barile ci aveva addestrato, dire, quando discutete la tesi di laurea citate la dottrina, non dite mai un certo, perché se voi dite un certo e quel certo è in commissione di laurea, voi avete chiuso, quindi io da, cioè, vedete che non ho detto certo, ho detto qualcuno, però. Allora, l'obiezione è, ma questa materia cos'è, competenza esclusiva delle regioni? Beh, probabilmente, anche se qui si intrecciano valutazioni molto diverse. Io ricordo comunque che nel testo che avevamo presentato, e che anche questo aveva creato un po' di irritazioni, ma non era, da parte di Bettori, ma non era questo il motivo principale, perché noi dicevamo che si potevano costruire edifici di culto anche in deroga alle norme urbanistiche sulla zonizzazione, ove limitative senza giustificati motivi. Cioè, quello che in fondo mi pareva accennassi anche tu, cioè molti comuni del nord, cioè non è che ponevano problemi, facevano i piani regolatori, dicevano che non c'erano spazi ai piani regolatori, e quindi praticamente se uno voleva costruire il suo edificio di culto, non possono dire solo per le moschee, no, d'accordo, però il problema è che siccome le altre chiese c'erano già e quelle ancora non c'erano, cioè col meccanismo dello strumento urbanistico tu di fatto bloccavi una libertà costituzionale, e questa espressione, qui mi riporto, ci avevamo lavorato con Casuscelli su questa cosa qui, cioè anche a me faceva un certo effetto, però diceva comunque nel rispetto della normativa in materia di parametri urbanistici, di sicurezza, di accessibilità, di edifici. Ecco, quindi, però la norma che diceva anche in deroga, se, insomma, quando è stata vista un po' capita, ho detto, ma Dio, in deroga gli strumenti urbanistici, ma in deroga se gli strumenti urbanistici sono irrazionali. Ecco, questo per dirvi, chiudo, cioè, vabbè, che non è certamente questa la stagione per affrontare non solo una disciplina sulla legge generale sulla libertà religiosa, ma neanche su singoli istituti della libertà religiosa. Io sono convinto, cioè, che non esce nulla di buono, non esce nulla di buono. Certo. Non per nulla, noi l'abbiamo visto, io le leggi ci sono depositate, ma abbiamo visto quello che è successo sulla cittadinanza, quando praticamente sulla cittadinanza abbiamo cercato di fare un qualcosa. No, tu citi la Sarubi, ma c'è Bressa. C'è Bressa che sosteneva addirittura il non solo ius soli, ma il diritto dopo 5 anni di residenza ad acquisire la cittadinanza e non avere più la concessione, che è molto nella linea della relazione che tu hai fatto a Cagliari, se non sbaglio. Però, che cosa vuoi fare? Quando esamini una proposta di legge sulla cittadinanza, esci con una proposta di legge che è regressiva rispetto alla legge del 92, capisci che è meglio non fare queste testimonianze lì dentro, perché i danni possono essere enormi. Quindi la mia conclusione non è pessimistica o amara, insomma è realistica. Cioè adesso in queste condizioni non ci sono le condizioni di presupposto per poter operare in questa materia. Naturalmente è chiaro che, insomma, tutti noi, anche adesso con questo volume, siamo in grado di fare meglio questo mestiere, non lo faremo noi, ma lo farà qualcun altro dopo, perché effettivamente io credo fermamente in una legge generale sulla libertà religiosa, in cui all'ultimo articolo, lo dico per la Riccia che è qui perché sennò polemizzerà subito, all'ultimo articolo, tu lo sai, c'è l'abrogazione secca, perché le leggi, voi sapete che le leggi vanno lette, le abrogazioni vanno lette prima, non vanno lette alla fine, ma c'è l'abrogazione della legge del 29 e sulla base di quell'abrogazione si può costruire un nuovo edificio. La Riccia dice abroghiamola e basta, ma però adesso abbiamo già parlato tante volte, quindi parlerà lui. Grazie. Grazie molto al professor Zaccaria, e certamente abbiamo avuto una serie di relazioni molto densa e credo esauriente dei problemi almeno generali che ci troviamo davanti. Domando ai molti autori presenti se vogliono intervenire per aggiungere qualche cosa, il professor Tozzi, il professor Macri, il professor Giustiniani, che Benissimo. Allora prego, professor Prestigliani, puoi spostare questo? No, ecco, sì. Viene qui. Basta dargli il microfono. Creiamo una postazione di interesse. Sì, intervengo solamente perché all'interno del volume il mio compito fu di coordinare il dibattito politico e di comunicazione pubblica di questi temi, che è uno dei livelli di discorso che rispetto a ciò che abbiamo ascoltato di pessimismo sull'attuale stagione, significa che attraverso una nuova comunicazione di questi temi nel vasto pubblico si può creare opinione pubblica. E in particolare, coordinando quel lavoro, come poi ho scritto anche in quelle pagine, ho detto che il vero nodo è quello che ci diceva il professor Zaccaria, e cioè il tema della laicità, che diventa principale all'interno di una legge generale, diventa il fondamento. Non a caso trovo diversi ostacoli teorici nella stampa di parte cattolica della CEI. Quello è un nodo che va discusso sulla base di tutti gli apporti che abbiamo avuto, non solamente di giuristi, ma soprattutto di filosofi della politica e di teologi, perché è un nodo che può purificare anche il tipo di interventi del segretario allora della CEI. Quindi marcherei, e chiudo perché si tratta di brevi interventi, la necessità che è giuristi, è filosofi della politica, è filosofi della religione come me, all'interno di un mondo peraltro teologico, riqualifichino storicamente il tema della laicità, che è un tema fondamentale dell'autopercezione di un gruppo, una confessione, una formazione religiosa maggioritaria ancora nella penisola, quella cristiana nella forma cattolica, e che soprattutto storicamente può dare nuovi lumi per dire non è la libertà religiosa che fonda la laicità, ma l'inverso, ma non solamente una laicità intesa come ignoranza o indipendenza a priori di tutte le appartenenze confessionali, bensì, come all'interno del mondo cattolico, una laicità di popolo. Questo, a livello di comunicazione, di grandi media, potrebbe creare e generare una nuova discussione, forse al di là delle aule in cui queste cose vanno discusse, le aule parlamentari, creare nel Paese, nelle piazze, nelle aule universitarie, nella quotidianità, un ripensamento. Questo mi sentirei soltanto di dire. Speriamo che il professor Giustiniani abbia ragione, almeno una parola non scettica l'abbiamo udita. Ci sono altri interventi? C'è un signore là che... La Riccia? Prego, prego. Sì, non sono giurista, non ho letto il libro, ho ascoltato i tre relatori, anzi il quattro. Vuole venire? No, che registri? Una domanda. Il tema religione, libertà religiosa, che mi fa pensare, fondato sul presupposto che tutta la cittadinanza ha almeno una appartenenza, una diversa appartenenza religiosa. Non è detto. Se penso invece alla realtà, oltre che italiana, anche e soprattutto quella europea, dove un 25% di adulti oltre i 18 anni si dichiarano non appartenenti religiosamente, quindi non hanno nessuna... E però vedo che nei testi, molti testi dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa, dell'OSCE, soprattutto riguardanti la politica o le politiche di educazione, di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche e nelle università, vedo che è invalso l'uso in questi ultimissimi anni di non parlare solo di religione, né di religione o laicità, quasi in opposizione, ma di parlare di un binomio che è declinato di solito secondo le varie lingue, religione e convinzioni, o religioni e filosofie, religioni e credenze. Abbinando questo interesse sulla libertà religiosa non solo di chi si dichiara appartenente, ma includendo anche il cittadino che ha diritto a una libertà religiosa sui generis, proprio perché non appartiene a una chiesa o una organizzazione. Vorrei allora sapere, la domanda è questa, in questo disegno, futuro disegno di libertà religiosa, l'Italia, come dire, congloba in questa filosofia della libertà religiosa anche la non credenza, in modo che il 100% dei cittadini si senta poi rispettato nella, nella... Un piccolo aneddoto, sì. Scusa solo un secondo, posso confermare questo problema con un piccolo aneddoto. Nell'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea era previsto appunto questa libertà, e nella, siccome i testi venivano redatti in francese e in inglese, nel testo francese c'era la parola conviction. La versione italiana, fatta dai giuristi linguisti italiani, era fede. Ho dovuto scrivere al presidium della convenzione che redigeva la carta per pretendere che la traduzione italiana rispettasse la parola convinzione e non fede, perché, come dire, era una cosa di abitudine, di mentalità, di cultura, di fare questa come ovvia identità fra convinzione e fede. Prego, professore. No, io vorrei dire che mi sembra tutte le libertà religiosa, come altre libertà, hanno un risvolto anche negativo, cioè libertà di professare la propria fede e i culti comprende la libertà di non professare alcuna fede e di non esercitare alcun culto. Quando parliamo quindi di libertà individuale è pacifico, che non c'è bisogno di, come dire, di specificare che la libertà religiosa comprende anche l'aspetto non religioso. Se parliamo di formazioni sociali, di gruppi, di confessioni religiose, ovviamente il discorso è diverso, perché non ha senso che esista una confessione dei non religiosi, cioè sarebbe come dire che esiste così, l'espressione di coloro che tacciono, non ha senso comune. Quindi là il problema semmai è se e fino a che punto la legislazione dello Stato può dare uno statuto, naturalmente in termini di uguaglianza e non discriminatorio, ad associazioni, a gruppi che si qualifichino per riferimenti religiosi, statuto a cui ovviamente non è pensabile che accedano gruppi che per definizione si dicono non religiosi, non accedono. Possono accedere ad altri statuti, alla libertà di associazione generica, alla libertà della cultura, alla libertà dell'insegnamento, eccetera, eccetera. Ci sono altri? La Riccia, prego. La Fondazione Basso per tradizione ha la capacità di invitare a parlare dei libri che tanto frequentemente con grande successo vengono presentati, e ha la tradizione di rivolgersi sempre alle persone migliori, le persone più idonee. In questo caso è stata raggiunta la perfezione, perché sono qui chiamati a presentare, sono stati chiamati a presentare il libro, tre persone alle quali va il ricordo e anche la gratitudine di tanti tra noi che hanno studiato questi temi del diritto ecclesiastico, dei principi di laicità, di confessionalità, eccetera. Rapidissimamente, il professor Casavola è relatore, è stato relatore della famosa sentenza 203 del 1989. Il professor Onida, al di là di tutte le sue attività, dei meriti acquisiti nella sua lunga esperienza di giurista, di magistrato e di presidente della Corte Costituzionale, ha anche dimostrato in tutta la sua vita, direi, professionale, una grande attenzione ai temi discussi in questa occasione. Io ricordo la grande, diciamo, soddisfazione provata nel lontanissimo 1979 nell'ascoltare una relazione sulle intese svoltasi a Parma in un grande convegno, un importante convegno. Come è abitudine dei professori anziani, vorrei dire ai più giovani: andate a rileggervi quella relazione, oltre agli atti del convegno pubblicati da Giuffrè, perché ci sono una serie di argomenti che sono collegati alle cose ascoltate oggi. Il professor Roberto Zaccaria, ovviamente lo sappiamo tutti, già da anni è non soltanto stato la persona che più di ogni altra ha dedicato attenzione a questi temi negli ultimi periodi come parlamentare, ma appartiene a quella tradizione della scuola di Paolo Barile che allo studio dei diritti fondamentali, del rispetto dei diritti della persona, ha dedicato proprio come scuola sempre grande rilievo, e quindi ogni volta che io lo vedo mi fa piacere ricordare il grande contributo che ha dato anche personalmente alla mia formazione e la fortuna di provare un'amicizia nei confronti di Paolo Barile. Detto questo, vorrei rapidissimamente cercare di esprimere le ragioni per le quali Io sono molto soddisfatto che non vi siano speranze di una immediata approvazione della legge sulla libertà religiosa. Sono venuto anche per trovare conferma in qualcosa che avevo l'impressione, anche da alcune sensazioni che avevo potuto avere, ma personalmente sono molto soddisfatto. Le ragioni sono molto numerose, le ho cercato di esprimerle in quell'intervento che ho svolto alla Camera dei Deputati, per aver avuto la cortesia di essere stato chiamato a esprimere il mio pensiero. Me lo sono andato a rileggere, il contributo dell'11 gennaio 2007, sono passati 4 anni e da allora non ho cambiato idea, anzi semmai l'ho un po' rafforzata. È rimasta anche la legge del 29, lo so, però la mia opinione sulla legge del 29 è molto facile, si riferisce all'insegnamento del mio carissimo amico Giorgio Peirò, che è morto purtroppo nel 2006, se non ricordo male, e che osservava già da molti anni, osservava come l'abrogazione della legge 1159 del 29, del Regio Decreto 289 del 2030, si sarebbe potuto ottenere con un articolo di 3 righe nella quale si diceva, secondo me si può dire tuttora, che la legge numero 1159 del 29, il Regio Decreto numero 289 del 1930 è abrogata. Vi sono molte ragioni opposte da coloro che ritengono che questo non sia possibile. Io credo che questo sia possibile, che questo sia non soltanto possibile ma doveroso. Naturalmente uno a questo punto dovrebbe spiegare, qualcuno ha detto prima, Giustiniani molto cortesemente, questo, si tratta di un breve intervento, quindi non voglio prestare così un'eccezione a questa regola. Che la ragione fondamentale per la quale io sono contrario a questa legge, infatti ho notato che nel parere che ho mandato ho scritto un parere contro queste proposte di legge in materia religiosa e ho sottolineato queste con il corsivo, proprio per dire che questa legge sarebbe stata, a mio avviso, è una legge pericolosa perché ribadisce con un'impostazione di una legge dell'ordinamento democratico quella differenza di livelli fra la disciplina concordataria, la disciplina delle intese, la disciplina del diritto comune, che è alla base della situazione di forte confessionalità della situazione italiana, di forte mancanza di democraticità della situazione italiana, dell'ordinamento giuridico italiano, con riferimento ai temi dell'ordinamento confessionale. Qui mi vorrei riferire al pensiero di Elio Basso, perché io Elio Basso, e ha fatto bene Elena Paciotti a ricordare che c'è una ragione in più per rendere interessante lo svolgimento dell'incontro di questa sera, perché c'è il ricordo di Elio Basso. Io Elio Basso l'ho frequentato, non dimenticherò forse per tutta la mia vita quelle giornate trascorse nella fine del novembre e l'inizio del dicembre del 1972, quando a Siena abbiamo discusso i temi della revisione del concordato. Io in quell'occasione presentai una relazione sull'eguaglianza delle confessioni religiose, qui si è fatto riferimento a questo tema, l'eguaglianza delle confessioni religiose. L'Elio Basso, l'ho ricordato anche in quel mio parere, non è garantita l'eguaglianza dei cittadini e delle confessioni religiose davanti alla legge, non è garantita in Italia in questo periodo tuttora l'eguale libertà delle confessioni religiose, già che, come aveva giustamente osservato l'Elio Basso nella relazione della proposta di modifica del concordato presentata nel 27 febbraio del 72, l'eguale libertà delle confessioni religiose risulta violata ogni qualvolta ad una confessione religiosa sia offerta la possibilità di un'esplicazione più accentuata di libertà. Allora, io sostengo la tesi dell'eguaglianza delle confessioni religiose vedendo un'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione che ebbe il consenso di Mortati, di Costantino Mortati, nelle sue istituzioni di diritto pubblico, il Paladin, la Corte Costituzionale con le sentenze del 66-69 in tanti altri casi, vede nell'articolo 3 della Costituzione la fonte per la garanzia dell'eguaglianza anche dei gruppi sociali davanti alla legge. Ho scritto più volte qualcosa su questo argomento, ma non soltanto non è garantita l'eguaglianza delle confessioni religiose, che come è noto non è stata affermata nella Carta Costituzionale, perché per un voto, se non ricordo male, non venne approvata la proposta dell'onorevole Laconi, ma non è garantita la eguale libertà delle confessioni religiose. non è garantita la uguale libertà delle confessioni religiose, perché con le intese si ottengono minori libertà rispetto a coloro che hanno la possibilità di riferirsi al concordato, e si ottengono maggiore libertà rispetto a quelle che sono garantite nei confronti di tutte le formazioni sociali che non hanno avuto la possibilità di stipulare un'intesa con lo Stato. Quindi questa situazione di illibertà, di violazione dell'articolo 8, primo comma della Costituzione, che, come disse anche Dossetti in un famoso discorso a Bologna, è la norma forse più significativa, anche guardata a distanza di tanti anni, tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. In questa legge la situazione è sostanzialmente, in questa proposta di legge, verrebbe ribadito con una legge di carattere unilaterale dello Stato democratico, cioè voglio dire la legge 1159 del 29 e il relativo regio decreto di attuazione è una legge del periodo fascista, perfettamente coerente con l'idealità del regime fascista. La Costituzione è venuto meno al compito dell'abrogazione del concordato, ma voglio ricordare quello che diceva Lelio Basso nell'ultimo discorso pronunciato in Parlamento, questo libro bellissimo di Lelio Basso, Scritti sul cristianesimo, che è fatto a cura dell'amico Giuseppe Alberigo, e Giuseppe Alberigo ricorda che fu lo stesso Lelio Basso, unica voce in tutto il Parlamento italiano a respingere una restaurazione camuffata da revisione, unica voce in tutto il Parlamento ad opporsi alla revisione del concordato, perché è ritenuta fonte di situazioni di confessionalità, di ribadita confessionalità nel nostro sistema. Ricordo, e concludo queste poche parole di Basso, in questo discorso del 7 dicembre 1978, Basso morirà il 16 dicembre dello stesso anno, pochi giorni dopo. Ebbene, lui nella conclusione del discorso in Senato osservava: un autorevole giornale, commentando il dibattito di ieri in quest'Aula, diceva stamani che l'utopia dell'abrogazione del concordato era rimasta fuori dell'Aula. Ebbene, io non ho timore di confessare questa utopia, come non ho timore di confessare l'altra utopia, la più grande e la più pericolosa, che tutti gli uomini, come è stato scritto nella nostra Costituzione, avranno un giorno su questa terra pari e piena dignità sociale. Saranno da tutti considerati fini e non strumenti del potere altrui. Che queste mete perseguite da Basso con molta determinazione in tutta la sua vita non siano state raggiunte è anche causato dalle situazioni che si sono create nelle varie posizioni a proposito della legislazione ecclesiastica in materia della legislazione, diciamo, dello Stato in materia religiosa. E voglio anche ricordare, a proposito di quell'osservazione giusta che faceva Roberto Zaccaria, che io non sono un estimatore della sentenza 203 del 1989. E quella è una sentenza nella quale il principio di confessionalità è stato camuffato con il principio di laicità, perché in quella sentenza vi è il proposito di giustificare l'ora di religione prevista nel concordato del 1929, una norma che era incostituzionale, la ritengo tuttora incostituzionale, e quindi si è trovato nella Costituzione un principio di laicità che non si era mai trovato. Mi fa pensare alle pulizie di Pasqua, quando si trovano così dietro gli armadi, dietro le cose, dietro le tende delle situazioni. Dal 1956, per la prima sentenza del 23 aprile 1956 della Corte Costituzionale, al 1989 non ci si era mai accorti che esisteva un principio di laicità del sistema giuridico italiano. Casaola ha scritto una sentenza, a mio avviso fortemente criticabile, perché in quella sentenza non è garantita la laicità nel concetto di neutralità che è scritto nelle pagine chiare di Costantino Mortati, il concetto di laicità come sovrapponibile al concetto di neutralità. No, si è ritenuto che il principio di laicità, interpretato come l'ha interpretato la Corte Costituzionale, consentisse la presenza di una norma qual è quella contenuta nell'articolo 9 del concordato. Quindi io sono contrario alla proposta di legge, sono contrario a quella sentenza che è alla base di una serie di equivoci che ancora cose. Sì, vi saluto, Roberto. Io invece sono contrario alla sentenza. Sulle cose con Valeria abbiamo discusso. Ringrazio molto il professor Lariccia per il suo intervento. Temo che il professor Onida debba lasciarci, vero? Perché ha un treno. Però mi pare doveroso dare la parola al professor Casavola per una breve replica. L'unica cosa che devo personalmente contestare dell'intervento del professor Lariccia è l'attribuzione del merito alla Fondazione Basso di avere questo parterre di illustri relatori, perché invece, come ho detto, l'organizzatore è il professor Valerio Tozzi, al quale poi darò la parola conclusiva. Prego. E allora io all'amico Lariccia devo dare una risposta, ovviamente. La sua concezione della laicità postula la totale estraneità, il totale agnosticismo dello Stato rispetto a un fenomeno religioso che investe la collettività dei cittadini. Questo è il punto. Allora, lo Stato non è confessionista, lo Stato non deve promuovere privilegi per questa o quella confessione, ma non può ignorare la coscienza religiosa dei cittadini, altrimenti è uno Stato astratto che in realtà, sì, quello contrabbanderebbe per laicità una distanza ed una insensibilità che non sta dentro i fini generali dello Stato. Molto interessante anche questa conclusione di una appassionante giornata. Professor Tozzi vuole dire qualcosa? Io prendo la parola innanzitutto perché devo fare tanti di quei ringraziamenti che, per dirla contro Isi, il comico napoletano, io con la faccia per terra e voi che ci camminate sopra, nel senso che avere avuto l'onore della moderazione della presidentessa della Fondazione, la stessa ricordo e ispirazione della persona a cui è dedicata questa Fondazione, Lero Basso, che ho avuto la fortuna di conoscere, di vedere nel 72 al mitico convegno di Siena, che è stata una delle tappe formative, e poi questo parterre di Rouen che francamente mi onora moltissimo. Io non osavo sperare di avere questi autorevolissimi e gentilissimi presentatori. Una parola, ovviamente il primo ringraziamento va a tutti i amici che hanno collaborato a questo volume, che hanno collaborato al seminario. Anche devo dire con posizioni di molto più scetticismo di me. Io ho avuto suggerimenti negativissimi. L'amico Varnier, che poi invece è stata una grande colonna, mi ha sostenuto nell'iniziativa, ma è il primo a essere scettico nel volume sulla possibilità della legge. Ma che ne so, ci sono altri amici tipo Silvio Ferrari, Valerio, chi te lo fa fare? Questo perché a mia opinione noi confondiamo il ruolo di noi studiosi con quello della politica. Quando uno studioso è anche politico, naturalmente ha delle responsabilità che noi non abbiamo, ma lo studioso ragiona, riflette, propone. Il problema che io mi sono posto nell'organizzare questa iniziativa, parlo di quella del seminario ovviamente e poi anche di questa che è nel prosieguo, era quello di cercare di creare una mentalità diffusa di ragionamento su queste cose, perché ahimè, tra gli elementi negativi di questa fase storica è proprio quella che chi studia non si mangia con la cultura, non si mangia. Viceversa, io penso che il nostro compito è proporre, suggerire, poi è chiaro che sarà la politica a vedere ciò che è fattibile. Avevo un obiettivo di merito di cui due parole dopo le voglio dire, scusatemi se vi prendo tempo, ma perché è un discorso che ho affrontato nel convegno del 2007 dei costituzionalisti a Napoli sulla laicità, quando i costituzionalisti, bontà loro, si interessarono dei fatti del diritto ecclesiastico. Oltre, ripeto, all'entusiasmo per la relazione di Leopoldo Elia, cui dedicammo il seminario, proprio sull'argomento delle leggi permissive, tra l'altro, ma c'era proprio il problema che io volevo porre a quella collettività di un punto di vista che poi adesso proverò a ripetere in maniera sintetica, e che era lo stimolo di fondo, perché molto diciamo in radice dei problemi che poi nel merito tratterebbe un'eventuale proposta di legge. L'altro obiettivo che ci proponevamo e che oggi credo trova conferma nei presenti e nei partecipanti era quello di divulgare, diffondere, far sapere che ormai io sono decano nella mia facoltà, noi siamo dei vecchi, c'è una generazione, più generazioni di studiosi validissimi che sono in buona parte presenti qui, che molto più di me o di Sergio Lariccia, non deve avere a male, che è un pochino più grande di me, possono rappresentare le esigenze, i bisogni della cultura del diritto ecclesiastico, della disciplina della regolazione giuridica del fenomeno religioso ai tempi attuali e per i tempi futuri. Più di lui, di Sergio, più di me, più di... Naturalmente, se mi consentite una battuta, dico, professor Casavola, Pasquale Giustiniani, parlano perché non c'è più il rogo, ma Giordano Bruno figli sul rogo. Dall'altra sponda del Tevere già avete avuto un segnalino, speriamo bene, è una battutaccia. Allora, quindi per me un gran grazie ai coautori che sono venuti, perché hanno testimoniato fisicamente questa mia convinzione. Sono loro, non siamo noi, che dobbiamo essere sentiti. Per carità, volete sentire anche noi, siamo onoratissimi, ma ascoltate loro, ascoltate i quarantenni, dico ascoltate, naturalmente mi rivolgo a lei sapendo che è fuori tempo massimo, ma comunque vabbè, come ragionamento, perché secondo me è molto importante che il futuro sia oggetto della riflessione e del contributo di chi lo deve vivere, non di chi se lo deve così auspicare. La mia brevissima, spero, notazione. Io già al convegno dei costituzionisti posi questo problema, poi ho avuto la fortuna di parlare una lunga serata in cui il professor Casavola ha avuto la bontà di ospitarmi in una chiacchierata. Ora, io sono convinto di questo: il costituente non parlava a casaccio, quindi i termini che usava sono dei termini scientificamente adeguati a rappresentare i concetti che in ogni singola norma della Costituzione si volevano porre. E non è casuale, questo è il tema su cui io insisto, che solo nell'articolo 8 si parli di confessioni religiose, mentre nell'articolo 19 si parla di quelle forma associata del diritto di professione di fede, che ha lo stesso etimo dell'articolo 2, i diritti inviolabili dell'uomo, per cui c'è una attenzione al fenomeno religioso, non solo, come ha già gentilmente fatto notare Valerio Nida richiamando il mio intervento, nella dimensione individuale, la persona, quella che vorrei tranquillizzare anche il signore che è intervenuto lì, parliamo di libertà religiosa perché è la tradizione, diciamo, letteraria che ce lo chiede, però è chiaro che parliamo di libertà di coscienza, ormai gli atti europei lo hanno fatto, anche se la Chiesa se ne è un po' adontata, ma hanno esplicitamente richiamato la libertà di coscienza, le formazioni culturali, filosofiche, eccetera, eccetera. I due termini sono diversi perché si voleva far riferimento a cose diverse, e io aggiungo l'articolo 20, che usa ancora una terminologia diversa, la usa perché fa riferimento ad un altro aspetto del problema. Allora, formazione sociale a carattere religioso è l'espressione della libertà religiosa collettiva ed è la forma esplicativa più ampia di questo diritto. L'articolo 20, che parla invece di limitazioni al potere pubblico, quindi non fare leggi, non fare trattamenti fiscali, eccetera, eccetera, stringe l'imbuto non nel senso di limitare a te sì, a te no, ma nel senso di far riferimento a quelle entità che possono essere riguardate da quel tipo di prescrizioni che l'articolo 20 dà, e quindi parla di istituzioni e associazioni a carattere ecclesiastico e confine di religioni e culto. Il professor Casavola aveva una bella conversazione su questo punto, se il concetto di carattere ecclesiastico implichi un rimando meccanico al concetto di confessione religiosa, oppure non faccia riferimento al concetto di formazione sociale organizzata, strutturata, ma appunto strutturata in maniera molto potenzialmente anche diversa da quella delle confessioni religiose. Le confessioni religiose invece sono quel fenomeno apicale delle forme collettive della religiosità che è stato considerato apposta in un settore diverso della Costituzione, non perché le si volesse contrapporre o differenziare, ma perché proprio perché il settore apicale è quello che rimandava a quell'esigenza di coordinamento con le specificità che possono non rilevare per una formazione sociale più diciamo rudimentale, più iniziale, meno diffusa e significativa, ma anche perché noi sappiamo, per altro verso, che storicamente la norma dell'articolo 8 nasce come mediazione sull'articolo 7, su quella, sulla richiesta di parte cattolica di salvare i patti e di salvare un certo modello. Perché io faccio questa polemica semantica, diciamo così? Perché la tradizione del periodo precedente, del ventennio precedente, ci aveva abituati a quello che, semplificando direi il metodo dei diritti riflessi, dove la Chiesa era contemporaneamente considerata come soggetto sovrano, ma in quanto religione di Stato era anche un'entità pubblica, nel senso di un soggetto dotato di poteri pubblici all'interno della realtà istituzionale italiana. Il personale ecclesiastico aveva compiti pubblici, pensiamo ai cappellani, pensiamo a tante figure, e il diritto canonico entrava attraverso il meccanismo dei rinvii concordatari in maniera operativa, dando poteri pubblici. Ancora oggi il parroco può non trasmettere l'atto di matrimonio e lo Stato civile di un cittadino può essere sospeso per inadempienza, per cattiveria o per convenzione con il privato. Queste sono forme che appartengono alla struttura del passato, quando la destra fascista era la destra del pane, quando i diritti dei cittadini non erano individuali ma erano filtrati attraverso soggetti pubblici, collettivi, dotati di questo potere. L'articolo 7 della Costituzione, è vero, ha richiamato i patti lateranensi, se per questo il mitico articolo 1 del trattato che rinfrescava il principio di ragion di Stato, ma che poi fortunatamente si è riconosciuto essere superato. Però uno aveva una certa chiave di norma transitoria nella parte in cui prevedeva già la modificabilità dei patti. Due, regolava una situazione pregressa in cui c'era un trattato internazionale, i patti, e una legislazione interna ordinaria, la legge 810, che quei patti rimetteva nel sistema giuridico. Se ci ricordiamo, nel 48 non fu abolito tutto il codice civile e il codice penale, il sistema giuridico rimase in piedi, furono abolite le norme sulle corporative, e poi si disse le istituzioni nuove che nascono faranno il compito, e nel materia nostra c'era un problema di adeguamento costituzionale delle relazioni della Chiesa con lo Stato e poi naturalmente della formazione di un diritto adeguato al principio costituzionale. Io arrivo al punto radicale di dire che il concordato revisionato dell'84 non può avere nessun tipo di copertura costituzionale per il semplice fatto che, salvo il principio di bilateralità, che quelle sancite non si discute, ma nessuno dei soggetti nei plenipotenziari, nel Parlamento, nel governo che l'ha proposto al Parlamento, aveva il potere di contravvenire alla Costituzione. Quindi nessuna norma degli accordi modificati può essere lesiva dei principi costituzionali. Naturalmente noi sappiamo che delle sentenze 30, 31 e 32 c'è quella attenuazione, diciamo, del concetto di contrasto con la Costituzione. Vabbè, entriamo troppo nel merito. Quello che io vorrei dire: se noi continuiamo sulla scia del continuismo che dal dopoguerra in poi ci ha fatto considerare le confessioni come l'unica forma intellegibile di soggettività collettiva religiosa, e attribuiamo a queste confessioni un potere di rappresentatività istituzionale dei bisogni religiosi della popolazione, dell'uomo, noi stiamo ancora continuando nel regime precedente. Se noi invece ribaltiamo la logica, e partendo dal fatto che omnium causa omne ius constitutum est, e che quindi il principio di libertà religiosa, anzi di professione di fede religiosa, il 19 questo dice, contempla la fenomenologia sociale della religiosità e pone un grave problema da sciogliere giorno per giorno, voglio dire, man mano che evolve la cultura, che evolve la società, del rapporto di appartenenza confessionale, in che misura deve rilevare, in che misura può rilevare, perché certo non possiamo accettare i giudici che vogliono rimettere il testimone di Geova nell'associazione perché è stato cacciato, non possiamo ammettere una disciplina statale che regola l'abbigliamento, perché sennò torniamo a quei papi che decidevano con le loro bolle la lunghezza delle gonne femminili e roba del genere. Ma tra l'altro non possiamo nemmeno delegare alla legge tutto, perché ci sono cose, se i crocifissi sono regolati in un atto regolamentare, forse il burka non ha bisogno di una legge per essere regolato, ma altrove. Allora la legge sulle libertà religiose, nelle intenzioni di Valerio Tozzi proponente, non per parere condiviso da tutti gli autori, doveva essere quello strumento per creare un parterre uguale di diritti certi alle persone fisiche e alle formazioni sociali, fermo restando, perché diritto vigente non può essere abrogato, che concordati e intese sono i sistemi di raccordo con le specificità, ma dei gruppi più importanti. Sì, cioè, perché non c'è stato, no, perché tutto si può cambiare. Sì, figuriamo, pure la forma repubblicana si dice che non è modificabile, ma poi voglio vedere, Mubarak non so che farà adesso, ma dico, può succedere di tutto. Allora, noi vorremmo un ripristino del contenuto delle libertà garantite alla Costituzione, dalla Costituzione a tutti, e una rimeditazione dei contenuti delle normative contrattate con i gruppi confessionali, che devono ben registrare le esigenze della confessione con le garanzie costituzionali, ma per esempio forse non si dovrebbero occupare di 8 per 1000, non si dovrebbero occupare di quelle interventi promozionali o libertà che la legge deve garantire a tutti in maniera uguale, persone e formazioni sociali di qualunque grado e livello. Per questo abbiamo tentato di ragionare tra di noi e abbiamo ragionato con grande diversità di opinioni, che perlomeno ci dà il piccolo merito di non essere stati partigiani. Ringrazio tutti, veramente tutti, per questo, e soprattutto la Fondazione che ha voluto così gentilmente ospitarci. Bene, grazie a tutti, grazie in particolare al professor Tozzi che ha organizzato questo piacevolissimo e interessantissimo incontro. Buonasera e arrivederci, spero, a un altro dibattito di questo tipo. Non mancherà il professor Lariccia, che è un amico della Fondazione.